A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. L'operazione Anton Veneta nel 2007 fu l'inizio di un lento e progressivo declino. Quello che ora il mondo della finanza all'unisono dice, gli investigatori da subito lo avevano messo nero su bianco. Un declino che porta il Monte dei Paschi di Siena così a secco di liquidità, scrive il Wall Street Journal, da negoziare un prestito di 2 miliardi con Banca Italia. Ottobre 2011, mentre rassicurano i dirigenti, stando alla ricostruzione della testata americana, ricevono liquidità da Palazzo Koch, in silenzio per non spaventare il mercato. Un nuovo fronte da esplorare dunque, in una affare dai confini difficili da definire, che prima di tutto è un cataclisma per la banca più antica del mondo, che sta lavorando ora per evitare che il tesoro diventi azionista, anche se non sarebbe un dramma, ammette l'amministratore delegato Fabrizio Viola, che poi a Focus di Radio 24 confida: non immaginavo ci fosse così tanta robaccia. Mi immaginavo di trovare dei problemi anche piuttosto seri, perché sono arrivato attrezzato nuova sfida professionale. Francamente gli ultimi fatti, le ultime situazioni non me l'aspettavo. Mi aspettavo qualcosa di un po' meno pesante. È stato il nuovo management a trovare nella cassaforte dell'ex direttore generale Antonio Vigni i famigerati contratti derivati Alexandria, Santorini e Nota Italia, che hanno dato fuoco alle polveri. Da una parte dunque i derivati, dall'altra il contestato acquisto per 10 miliardi dal Banco Santander della Anton Veneta, su cui si erano già infranti i sogni della torrida estate delle scalate bancarie di Giampiero Fiorani e dei furbetti del quartierino. Il caso esplode ed è la miccia per un incendio che brucia l'intera città di Siena, un incendio che lambisce anche Francoforte, dove il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, già alla guida di Banca Italia negli anni delle sospette operazioni di Rocca Salimbeni, ora si sente in dovere di dare giustificazione. You've had for about a week and a half. Banca d'Italia. Per circa una settimana e mezzo avete letto sul sito di Banca d'Italia i resoconti dettagliati riguardanti questa vicenda. Avete visto che Banca d'Italia ha fatto tutto quanto era possibile fare, in modo appropriato e nei tempi giusti. Ma se ci sono dei dubbi, c'è anche il rapporto dei rappresentanti dell'FMI che si trovavano in Italia. Il Fondo Monetario ha pubblicamente affermato che Banca d'Italia ha assunto iniziative tempestive e adeguate, nei limiti del quadro normativo, per risolvere i problemi di MPS. Infine, non voglio entrare nel discorso delle elezioni italiane, ma andrebbe scremato ciò che si sente e si legge, considerandolo come normale chiacchiera nel periodo elettorale. Le carte dell'inchiesta raccontano in realtà delle bugie che il vecchio management della banca aveva detto agli organi di vigilanza, Consob e Banca Italia, ma nelle carte dell'inchiesta ci sono pure gli esposti che da subito, fin dal lontano 2008, azionisti o ex dirigenti MPS mandarono a quegli stessi indirizzi con una sfilza di precise contestazioni. Il danno sarebbe potuto essere ridotto, si chiede ora uno dei primi firmatari di un esposto, Rocco Semplici. Risale a un'assemblea vecchia in cui nel 2008, non avendo risposte adeguate dal CDA di Montepaschi in assemblea, un azionista fece un esposto alla Consob per avere notizie di come venivano democraticamente riferiti questi fondi, non avendo una liquidità necessaria alla banca per fronteggiare un'operazione così importante. Ecco. Lei parlava dei fondi riguardanti l'acquisto di Anton Veneta. Diciamo io insieme a questo azionista e un altro eravamo quelli che dall'assemblea appunto di incorporazione Anton Veneta nel marzo 2008 eravamo gli unici oppositori a questa operazione, era un dirigente del Monte. Che cosa si denunciava? Riscontri nessuno, poi se ne è rifatto proprio questo esposto l'associazione piccoli azionisti Buon Governo Monte dei Paschi. La risposta anche degli azionisti e dei dipendenti non è stata così corale. Sono arrivati circa 400 adesioni a questa associazione, noi sinceramente pensavamo arrivare oltre 1.000-1.500. Non avete avuto le risposte che vi aspettavate? Questo... No, perché comunque abbiamo capito che qui in questa città esiste sempre un grosso timore, è una politica poco sana, diciamo, chi si oppone specialmente dentro il monte prima, ora si spera le cose stiano cambiando, c'era veramente il rischio di sanzioni, di ritorsioni, tante motivazioni di gente che non si è iscritta all'associazione è stata proprio motivata che una sovraesposizione sarebbe stata forse possibile qualche distorsione, ecco, questa è una cosa bruttissima. Quindi il rischio di ritorsioni ha fatto sì che molti anche restassero indietro rispetto, esatto, alle proprie perplessità di quanto avvenisse. Un'operazione che era proprio un'operazione, una risposta della città, noi volevamo sollecitare proprio non altro che una risposta civica. Il vostro esposto esattamente a quando risale? 2008 è la prima volta che fu fatto. Voi nel vostro esposto parlavate anche dell'area finanza della banca? Facevamo presente del credito e debito interbancario, era un esposto basato su delle criticità ben individuabili su questa operazione che non stava in piedi. Chi conosceva quanto avvenisse all'interno della Rocca, era evidente anche che l'ufficio nevralgico di tutte queste decisioni era quell'area finanza diretta da Gianluca Baldassarri, giusto? Ora mi sembra ci siano state anche segnalazioni interne alla banca, questa mail del dirigente Menzi che invitava a valutare questa situazione, cosa non fatta. Però le vostre segnalazioni, quello che voi già nel 2008 avevate indicato alla Consob, avrebbero forse permesso alla Consob già all'epoca di venire a verificare che cosa succedesse all'interno di MPS? Sì, non solo. Noi pensiamo che anche la vigilanza di Banca Italia, secondo noi, qualche cosa da imputarsi l'abbia, perché addirittura sembra che l'operazione Anton Veneta sia stata fatta senza alcun preventivo parere della vigilanza, cosa che ci risulterebbe abbastanza anomalo, l'ha avuto dopo. Nessuno ha indagato a fondo su come era composta tutta questa scaletta dei pagamenti, poi scaletta dei pagamenti che come si vede dai 9 è arrivata ai 10 e ora è arrivata a bonifici per 17 miliardi. Cioè, mi sembra assurdo che cifre così importanti, cifre così significative non per una città o una banca, ma per un paese, cioè, noi ci chiediamo questo proprio appunto da piccoli azionisti, da piccoli cittadini, ma è possibile che noi certe cose l'avevamo visti con i nostri miseri strumenti e chi aveva strumenti, mezzi e il dovere soprattutto di controllare capillarmente queste cose non abbia fatto i giusti rilievi. In questo modo ci pare veramente, anche la politica, i partiti, ci pare veramente fuori luogo queste strumentalizzazioni, questo rimpalle di accuse su una banca alle spalle di un territorio, di cittadini, di dipendenti, 31.000 dipendenti in tutta Italia, 6 milioni di clienti in tutta Italia, per cui il centro nevralgico per noi ora è la fondazione, sia perché rimane l'unico legame con il territorio che potrà in futuro garantirci qualche piccola soddisfazione, ben piccola rispetto al passato, ma meglio di niente, ma soprattutto perché la fondazione aveva avuto tutti gli strumenti, avendo il 56% al momento dell'acquisizione di Anton Veneta, poteva veramente stopparla, bloccarla, rivederla. Nel momento in cui anche già voi come azionisti vi era balzato all'occhio che in qualche modo qualcosa non tornava intorno all'operazione Anton Veneta e avete mandato anche questi esposti, ora vedendo che ci sono state anche, come faceva riferimento lei prima, mail interne alla banca di persone che segnalavano cose che non sono state poi ascoltate, ecco, voi in qualche modo avevate avuto il sentore, la sensazione di che cosa avvenisse all'interno della banca? In uno dei miei interventi feci proprio riferimento, perché poi assieme a un po' le notizie circolano, io feci proprio riferimento a un report interno alla banca che sconsigliava di andare avanti con un'operazione di quel genere in quel momento particolare di mercato con quei termini di costi e di tempi. Ecco, ora se è venuta fuori questa email di questo dirigente è una conferma a quanto io dissi anche questo in assemblea qualche anno fa. Cioè lei disse di non andare avanti? Di non andare avanti, c'era proprio un report interno degli studi degli analisti interni al Monte che consigliavano caldamente di non andare avanti su operazioni così di aggregazioni così importanti in quel momento particolare, ante crisi c'erano. Queste segnalazioni a me me le avevano riferite, perché poi il bello era che quando andavo all'assemblea si parlava sempre d'oltre, ma ci arrivavano i bigliettini anonimi, le segnalazioni, le telefonate di persone, guarda esiste questo, per cui io non facevo altro che chiedere all'assemblea, ma ci risulta, è vero, sempre negate queste cose, sempre detto non risulta, sempre nascosto tutto, ma che ci fosse all'interno della banca un dissenso di alcune fasce di dirigenti, secondo noi è la verità. Anche lì i vari aumenti di capitale fino all'ultimo di 2 miliardi e 4 del 2011, so che in fondazione c'erano delle perplessità, però poi chissà perché tutti si sono piegati. C'è il capitolo Anton Veneta, ci sono i derivati, come quelli a volte troppo rischiosi, sottoscritti anche dagli enti pubblici e che ora mettono in allarme la Corte dei Conti, ma in questa inchiesta di Siena ci sono pure le sospette tangenti della banda del 5%, dalla percentuale che a detta di un super testimone prendevano alcuni manager. A ciascuno il suo. 40 milioni considerati corpo di reato, 40 milioni in titoli e liquidità sequestrati a 5 indagati, 40 milioni scudati, riconducibili parte agli ex vertici dell'area finanza del Monte dei Paschi di Siena, parte a 3 soci della società di intermediazione Enigma, tutti accusati di aver truffato MPS. La Procura di Siena comincia a mettere i sigilli intorno a quelle ricchezze che considera di sicura provenienza illecita, come si legge nei decreti di perquisizione. E la percentuale principale, 19 milioni scudati, è di Gianluca Baldassarri, ex capo dell'area finanza, centro nevralgico e propulsore delle principali operazioni finite ore sotto accusa. E contro Baldassarri, che nel mondo della finanza componeva insieme a Matteo Pontone, già alla guida della filiale di Londra di MPS, la cosiddetta banda del 5%, come Radio 24 vi ha raccontato nei giorni scorsi prima di tutti gli altri. Era notorio che prendessero questa percentuale su ogni operazione, mette a verbale nel 2008 davanti ai PM di Milano un ex manager della Dresdner, Antonio Rizzo, in un'inchiesta sulla società di intermediazione svizzera Lutifin. Riportavo conversazioni con colleghi che a mia tutela ho anche registrato, conferma ora Rizzo, consulente dell'ex ministro Tremonti e divenuto super testimone dell'affair MPS. Abbiamo confermato semplicemente quanto già detto nel 2008, niente di più, niente di meno. È una cristallizzazione delle prove del 2008 nella nuova procedura. Ecco, in quel verbale del 2008 di cui abbiamo già parlato, lei riportava di quanto un suo collega, sempre della Dresdner, che era a Londra, le aveva detto, giusto? Sì, io riportavo semplicemente alcune conversazioni che avvenivano all'interno di Dresdner su un'operazione anomala dal punto di vista della procedura, solo questo, diciamo. E proprio a partire da questa anomalia, diciamo, questo suo collega Cortese, appunto, poi gli aveva riferito del fatto che era notorio, leggo dal verbale, che appunto... Ecco. Prego. Io leggo dal verbale, io non le posso confermare. Se il verbale dice questo, va bene, io non posso confermare cose che sono in sottosegreto. Però lei lo ha confermato e ha ribadito ai magistrati di Siena quello che aveva già sottoscritto, giusto? Sì, io ho confermato esattamente quello che l'ha sottoscritto a Milano. Ha parlato anche del suo rapporto con il capo dell'area finanza di MPS, ossia Baldassarri. Sì, com'era? Era ottimo, nel senso che le dichiarazioni che vengono fatte a me all'interno di Dresdner mi trovano meravigliato, perché nel rapporto a due che avevo con Baldassarri, per le poche volte che l'ho visto, l'avrò visto 4-5 volte tutta la mia vita, e Baldassarri è una persona assolutamente professionale e corretta, non ha mai ammiccato, chiesto qualcosa, la massima professionalità nei miei riguardi, quindi non posso riferire che del relato delle cose, non posso dire niente di male di Baldassarri personalmente, come esperienza personale. Quando quel suo collega le riportò quello che girava su Baldassarri e Pontone, quelle sono sue dichiarazioni, io cos'è che si sostanzia, che cosa si sostanzia? Che siccome io, dato che io devo andare dall'audit interno a riferire di un'operazione anomala e l'audit interno chiede a me che cosa ne penso, io dico chiedete a chi lo sa, io non c'entro niente. A quel punto si inizia, diciamo, inizia l'indagine interna della Dresdner. Però quando le riferì questa cosa, quella che era la loro definizione, lei rimase sorpreso visto il suo rapporto con Baldassarri o no? Sì, assolutamente, ma io rimango ancora più sorpreso oggi, se posso essere chiaro, dall'ampiezza dei rapporti che aveva questa Lutifin, che per me all'epoca era un emerito sconosciuto. Oggi leggo su internet l'enormità di controparti con cui questa azienda, questa società, non so come definirla, questo broker, che aveva una modesta caratura, poteva intrattenere. Quindi io rimango più meravigliato oggi di allora. perché allora mi sembrava talmente un'anomalia, non conoscendo Ludifin, che l'anomalia mi sembrava ancora più grande, no? Adesso, guardando le controparti con cui lavorava Ludifin, direi io sono stato un incosciente, perché era nel sistema, voglio dire, non lo dico io, lo dice la relazione di Banca Italia. Il suo interrogatorio davanti ai magistrati di Milano, quindi raccontava, quindi a proposito di Ludifin, di Dresner, era del 2008. Lei, quando le parlavano di MPS, le riferivano anche dell'operazione Anton Veneta, che era stata dell'anno prima? No, assolutamente. Assolutamente. Mi guardi, io entro in questa storia per una... incidente di percorso interno a Dresner ed è una cosa assolutamente marginale rispetto a quello che sta emergendo oggi. Io sono più sorpreso di voi quando leggo sul giornale, sono più sorpreso di voi, non avrei mai immaginato quello che c'era sotto. Cioè lei dell'operazione Anton Veneta, della differenza di prezzo, no, non ne sapeva? Non so niente, no, se non quello che dicevano gli analisti finanziari, cioè tutti, non io, tutti che dicevano che il prezzo sembrava esagerato, ma dopodiché uno può pagare una cosa esageratamente e farla rendere esageratamente. C'era una differenza anche di oltre 3 miliardi, per cui è un fatto oggettivo. Ma nel momento in cui le fu riferito, Cortese le riferì di quello che si diceva intorno a Baldassarri e Pontone, in qualche modo lei pensò che potesse essere anche quella la ragione di un prezzo così alto di Anton Veneta? No. Guardi, diciamo, il tipo di operazione a cui ci si riferisce, e ne ho viste, sentite, viste personalmente, fatte no, però sentite fare decine sul sistema italiano, quindi non dico che ordine di amministrazione, ma quasi, no? L'anomalia era nel come era strutturato il rapporto con Ludifin. Infatti io su Ludifin vengo interrogato, non vengo interrogato su Montepaschi. Sul fronte Montepaschi, al di là di queste voci che le venivano che le erano state riportate, sul discorso anche dell'acquisto Anton Veneta, lei non aveva mai sentito nulla? No, assolutamente no. Né ha mai pensato dopo, si è dato qualche spiegazione? No, su quella? No, non mi sono fatto neanche domande, non mi sono dato spiegazioni né domande, perché l'operazione di cui stiamo parlando, di cui io ho contezza diretta, è un'operazione assolutamente piccola rispetto agli ammontari di cui si sta parlando oggi. Soltanto una spia, non è niente, stiamo parlando di pochi, di 120 milioni su... un montante ormai che sfiora qualche miliardo. No? Certo, non è paragonabile. Ma, no. Ma quando le fu riferito di quello che girava su queste due persone della Monte dei Paschi, in qualche modo le fu citata anche qualche operazione specifica? No, assolutamente. Noi parlavamo, guardi, erano incontri di lavoro, per cui parlavamo esclusivamente del nostro lavoro. Non andavamo a commentare. Mi ci fu detto di stare tranquillo, perché quella era la norma, ma dopodiché la norma a me non sembrava normale, e qui finisce tutto. Non c'è niente di più malizioso rispetto a quello che ho detto. Cioè non le furono citate le operazioni, no, cioè no. Il caso X piuttosto che un altro? Assolutamente no. Né le fu detto se in qualche modo il presidente Mussari sapeva di questa abitudine del 5%? No, non abbiamo mai parlato di questo. Cioè Mussari non è stato mai citato? No, mai, da nessuno, penso che nessun banker, io non conosco nessuno che abbia mai incontrato Mussari personalmente, quindi neanche di relato potrei dirle qualcosa. Già nel momento in cui mi parlano di Baldassarri e questi, io all'inizio lo ritengo un pettegolezzo, e l'ho ritenuto tale fino a 2 giorni fa, diciamo, perché si parla di molte cose, lì l'anomalia era questo pagamento, che poteva avere altre spiegazioni, però a quanto pare non le ha avute nei riscontri della magistratura. Basta. Io quello che faccio lo faccio per salvaguardare la mia persona e il mio posto di lavoro, consigliato dagli avvocati. Non è che io mi sveglio una mattina e detto adesso registro tutti. I miei avvocati mi dicono: guarda, è meglio in queste circostanze registrare, perché in autotutela, perché abbiamo visto casi in cui alla fine chi ha alzato il problema è diventato la vittima del problema. Quindi lei ha portato e ha consegnato queste registrazioni con il suo collega Cortese? Sì, io ho consegnato all'epoca, quindi 2008, sono cose che per me nella memoria, cioè, faccio sforzo addirittura a ricordarle. Al di là di quello che è successo in Dresden, era comunque un episodio marginale. Ma perché ha detto che dobbiamo aspettarci delle sorprese rispetto a Baldassarri e 20 milioni trovati all'estero? Ma perché secondo me Baldassarri è una persona estremamente intelligente. Lui fa uno scudo di quel tipo su denaro che non riesce a giustificare. A me sembra una cosa da stupidi. Lui lavora in finanza da tanti anni, mi sembra una cosa per me incredibile. Poi, sa, Baldassarri ha lavorato a Londra, io non so i bonus che percepiva a Londra, non so se quei bonus erano offshore, erano in Italia, quindi voglio dire, ci sono mille modi per cui uno possa avere in finanza 20 milioni. Io conosco gente che ha avuto bonus di 20 milioni, per cui a me questa notizia così a naso sembra incredibile. Però voglio dire, poi sa, in questa storia di cose incredibili se ne vedono tante. Aveva mai sentito parlare anche di questo rastrellamento di MPS, di azioni Unipol, BNL? No, mai sentito. Attraverso Londra? No, mai sentito niente. Non aveva mai sentito di tutto questo. Però quindi la stupiscono questi 20 milioni scudati da Baldassarri? No, la stupiscono nel senso che sì, mi stupisce se è vero che Baldassarri non solo conosce la finanza, conosce anche la normativa dello scudo, essendo un banchiere. Quindi le banche sono obbligate a denunciare proventi che provengono da, cioè che non sono compatibili col reddito della persona che scuda. Lui è un direttore di un'area finanza, fa uno scudo da 20 milioni e non sospetta che la banca che glielo fa possa segnalarlo. Se ha fatto questo non era poi così furbo, si poteva scoprire anche prima le altre cose che faceva se le abbia mai fatte. Di quello che lei sapeva e di quello che lei ha raccontato ai magistrati all'epoca a Milano sul MPS, l'ex ministro Tremonti sapeva qualcosa? No, assolutamente. Io penso che io scopro di essere, tra virgolette, il super, e non sono super, testimone, mentre sono all'audizione alla Camera del ministro delle Finanze. E perché era una cosa per me assolutamente irrilevante rispetto a quello che leggevo sui giornali. La mia posizione sull'UDIF, che sarà molto ridimensionata col passare del tempo, vedrete, non avevo accennato neanche niente. Infatti ero molto imbarazzato, dico, guardi, il mio nome sui giornali come super testimone, diciamo, però non. Poi il rapporto mio con Tremonti è un rapporto assolutamente casuale, talmente pubblico che su internet. È un suo consulente? Che tipo di rapporto è? Ma no, guardi, con Tremonti ci conosciamo per i miei articoli sui giornali, poi ci vediamo in un paio di occasioni pubbliche e io vado a Riccione alla sua presentazione manifesto, faccio un intervento che trovate online e dopodiché mi chiede, io mi metto a disposizione per la campagna elettorale e lui mi dice va bene, diciamo, collabori tranquillamente. Un rapporto, diciamo, molto trasparente e molto documentabile. Tremonti, io non sapevo neanche dove trovarlo. Ho iniziato a vedere Tremonti in occasioni pubbliche nel 2011, tardo 2011. Se legge i miei articoli sul fatto, vede che di Tremonti non è che poi sia proprio uno che è, no? A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare vi ricordo il sito radio24.it nella sezione podcast. Scriveteci cosa ne pensate sulla pagina Facebook di Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.